Senti, cosa sta succedendo oggi nel mercato? Partiamo da qualche numero. Il mercato per noi europei non sta, forse quasi paradossale o comunque strano, non sta andando molto bene. Un mercato che in realtà, vedendo la gente nei negozi, sembrerebbe andare da tutt'altra parte. Sì, nel primo trimestre abbiamo avuto il primo decremento del mercato europeo dal 2001. Nel 2001 abbiamo avuto una discesa di vendite causata dal fatto che gli operatori avevano tagliato le sussistenze nel mercato prepagato e quest'anno vediamo l'effetto di diverse cose. Uno, che prima di tutto non c'erano dei telefonini nuovi che hanno così. Attirato l'attenzione. Esatto, e arriveranno invece nella seconda metà dell'anno. La seconda cosa è che nei mercati dove ci sono forti sussistenze, come la Germania, la Francia, l'Inghilterra, queste sussistenze vengono date a contratti molto lunghi, quindi la gente ha sottoscritto a 2 anni di contratto e quindi non rimpiazza i cellulari ogni 12 mesi come accadeva prima. E l'ultimo fattore è che comunque questa pressione economica che viviamo, dal costo della benzina al costo anche del cibo in alcuni paesi che è salito, fa pensare una volta in più al consumatore prima di spendere i soldi su telefoni di alto costo. Nel resto del mondo invece le cose vanno molto bene. Sì, specialmente nei paesi emergenti continuiamo a vedere crescita, tanto vero che per l'anno, nel 2008, vediamo una crescita intorno al 15% rispetto all'anno scorso, che è ancora ovviamente un livello molto buono. Senti, dal punto di vista tecnologico, hai visto delle novità interessanti o stanno arrivando delle novità interessanti? Perché oggi, parliamo, di telefoni di cui forse già abbiamo parlato un anno fa. Sì, è vero, dal punto di vista tecnologico stiamo forse vedendo in maniera più materiale quello di cui stiamo parlando da un anno, quindi la velocità sulla rete di terza generazione, HSDPA, se, per quelli che amano tutti questi acronimi, sta effettivamente adesso fruendo un attimino di più rispetto a un anno scorso dove se ne parlava, ma poi in realtà non vedevi il servizio. Adesso se io voglio fare dell'internet browsing ho effettivamente un'esperienza molto superiore. Ci sono dei paesi dove oramai questa è un'esperienza comune e soprattutto dove gli operatori hanno ideato come si dice in gergo, dei flat rate, quindi degli abbonamenti non più a consumo, ma flat. Sì, incominciamo a vedere questo in paesi come la Germania, l'Inghilterra, a caso o forse no, dove l'iPhone è arrivato anche sulla rete Edge a novembre, qui in Europa abbiamo visto gli operatori un attimino più propensi a offrire queste tariffe flat. C'è un po' sempre la paura della cannibalizzazione dell'ARPU, ma in realtà secondo me deve essere visto come un investimento, perché se tu dai il flat all'utente, l'utente è più interessato a provare cose che magari avrebbe paura del costo. Sì, l'ARPU, lo ricordiamo, è questo indice che ci dice quanto si guadagna su ogni cliente, Esatto. che è un po' un indicatore di quanto bene stanno facendo i manager Delle telecom, sì. delle società di telefonia mobile. Quindi tu dici questo potrebbe essere in alcuni casi un freno per le compagnie perché appunto ci si accontenta di un flat rate e non si va oltre a Sì, quello. esatto, lo vedono come non una cosa che incrementa, ma c'è una flat. Ma d'altra parte, come dicevo, questo invece secondo me è veramente una spinta per il consumatore a provare dei servizi che altrimenti non proverebbe.